le autrici siamo psicoterapeute, psicologhe e psicoterapeute, e tutte e quattro, per motivazioni diverse, ci siamo trovate a lavorare sulla tematica del burnout nel mestiere educativo, cioè nell'educatore, nell'operatore sociale. E quindi ci siamo incontrate a un evento che c'è stato su un altro libro, la presentazione di un altro libro, e un po' da lì, incontrando anche l'editore Maurizio Mozzoni, è nata un po' questa idea di parlare, di scrivere un qualcosa che parlasse, che iniziasse ad affrontare questo tema, che è un tema di cui si parla sempre troppo poco. Il mestiere impossibile, l'impossibilità è, come dire, viene da una definizione di Freud, però, come dire, nel libro voi sviscerate i vari elementi, sia individuali, psicologici, che anche di contesto, che portano quello dell'educatore a essere un mestiere veramente difficile, che poi può sfociare nel burnout. Sì, perché il mestiere educativo già di per sé, proprio per sua natura, è un mestiere difficile, è un mestiere pesante, è un mestiere che mette in campo tante di quelle che sono sia le competenze di studio, ma anche quelle individuali, cioè la propria empatia, eccetera. Quindi secondo noi il passo principale, la componente principale è proprio il benessere, cioè l'educatore per lavorare bene deve stare bene. Il problema è che il lavoro di per sé ti porta ad avere delle pesantezze, delle difficoltà, e il contesto in generale in cui di solito ci si trova a lavorare è un contesto che non aiuta, che non facilita. Quindi abbiamo provato anche un po' ad affrontare queste tematiche qui, cioè come tutta l'organizzazione, tutto ciò che ruota intorno al mestiere educativo non favorisce il benessere, e cosa si può fare per ovviare un po' a tutte queste difficoltà. A proposito del contesto, ci sono varie componenti: da un lato il sistema degli appalti, ad esempio, dall'altro anche quelli che sono gli obiettivi del committente, in questo caso spesso le istituzioni, che spesso divergono dalle finalità che ha il lavoro stesso. Sì, perché molto spesso l'obiettivo, cioè l'educatore, è quello che lavora sul campo, diciamo, è quello che si trova a contatto con l'utenza, e magari molto spesso l'obiettivo, tutta quella che è la programmazione, viene decisa, ma non viene coinvolto nella decisione l'educatore, che poi si trova a dover avere degli obiettivi dettati dall'alto, che però molto spesso non hanno un legame reale con quella che è l'utenza, no? Quindi è molto un lavoro in cui bisogna anche mediare, no? Mediare fra le necessità dell'utenza, mediare fra le necessità della committenza, e molto spesso poi non c'è spazio per quello che è i propri vissuti, no? Il proprio benessere, anche i propri bisogni come lavoratori, perché come lavoratori tutti abbiamo dei bisogni. No? E molto spesso quelli dell'educatore vengono schiacciati fra quelli dell'utenza e quelli della committenza. Questo lo proviamo a spiegarlo anche attraverso un po' dei casi clinici che portiamo nel testo, cioè si capisce meglio la sottigliezza di questo, cioè un po' la complessità, sì, di questo tipo di concetto, di discorso. Nell'attuale mondo del lavoro, i rischi, appunto, che corre l'educatore, il famoso burnout, viene preso adeguatamente in considerazione, e ci sono, come dire, anche gli strumenti per impedire che si arrivi a questa situazione? La mia opinione, un po' da professionista, psicoterapeuta, è che comunque per adesso si fa troppo poco, e soprattutto, cioè, gli strumenti ci sarebbero ma non vengono usati, anche perché a monte c'è proprio una difficoltà a riconoscere questo tipo di esigenza nell'educatore stesso, cioè il benessere psicologico molto spesso viene un po' visto come un lusso, un qualcosa che non si deve chiedere, non si deve pretendere, quando invece è fondamentale, no? E questo secondo me parte proprio dal lavoratore, è un qualcosa che manca un po' la coscienza di come si sta, cioè come stiamo, come stanno gli educatori, stanno bene, stanno male, cosa si può fare. Tutte queste domande non vengono poste, diciamo, vengono poste dai lavoratori stessi, perché poi gli strumenti in realtà esistono e andrebbero richiesti.